Tonino è. Tonino. Sembra sia che se va scrivendo qua questo piccolo canile. Cambio. Hola. Sento da parecchio tempo. Io sono uscito nel pomeriggio, ho fatto una bella spesa, sistemato tutto, ho trovato persino parcheggio sotto casa. Cosa vuoi di più? E allora considerati fortunato. Non c'è più nessuno, non mi senti? Se non c'è più nessuno, io la vivo accendo. Anche stamattina sono stato più di un'ora con la baracchina accesa, ma non è entrato nessuno. Tu mi dirai, ma la mattina non entra nessuno, ma mi sembra che anche la sera idem, non è che sia così differente la questione. Per cui qualche volta sul 23 c'è qualcuno, ma anche lì non è che ci sia questa grande attività, Vero. E sai cos'è, Giulio? Conta che adesso magari chi lavora ha preso le ferie, molti stanno andando in ferie adesso, quindi si godranno le ferie con la famiglia, eccetera, altro che baracchini. Io mi sto dedicando poco, ieri mi giusto dei controlli a Gianni, c'era doppio room che stava tarando l'antenna veicolare e ha avuto ottimi risultati, quindi era soddisfatto. Arriva anche bene con quell'antenna. Anche sotto casa sua è discreto il segnale. E ogni tanto qualche attività in PMR, ma niente di che comunque. A periodi, dai. Io male nulla, perché non ne ho voglia proprio. Adesso sta risalendo già la temperatura, rispetto a ieri è già più calda la giornata, me ne sono accorto, molto. Sì, oggi è più caldo, sì, in effetti è così. Io al mare, io sono anni che non vado più al mare, nel senso per fare il bagno, però se no magari per fare quattro passi già ci vado in tanto, ma proprio per fare il bagno al mare no. Sono un sacco di tempo, anni, che non ci sono più andato. E non ci andrò più, perché è stressante, è stancante soprattutto. Ormai con la mia età, che me ne frega di stare lì, sotto il solleone, aspetta, a farmi bruciare il sole, anche se sei sotto l'ombrellone. Ma non è il caso, no, non ne ho più voglia assolutamente. Né io né mia moglie, non ne abbiamo voglia entrambe, per cui ce ne rimaniamo tranquilli. Non senza andare da nessuna parte con questo caldo, come fai? Almeno a casa ti rinfreschi, accendi il condizionatore, sei a posto, per cui non hai niente da perdere, solo da guadagnare. Sì, anch'io ho perso molto la passione, ma non è che tanto, è un po' per il fisico. Anche perché io quando vado alla mare voglio stare comodo, quindi mi porto anche troppa roba, più di quanta ne serva in realtà. E quindi arrivare a piacere tutto, andarsene, portare via tutto, insomma. Ci vorrebbe una casetta al mare, Giulio, anche villaggio grigio, rosso, quella roba lì mi. E avere il mare davanti, allora cambierebbe radicalmente la cosa, però non c'è la possibilità, dai. Ok, che altro c'è sul 10 avanti? Nessuno, non ho sentito nessuno io. E non so, sarebbe bella una bella villetta al mare, non tanto belletta, anche un appartamentino. Sarebbe bello, dai, tanto per passare, non so, qualche serata, così. Però io sono anche, ero intenzionato addirittura a comprarmi un camper, pensavo un po', proprio per avere un'uscita differente da quella che può essere andare, che so io, a Platamona o a Porto Torre o al Ghero e via discorrendo. Ero intenzionato a comprare un camper, figurati. Poi ci ho sommato, ma chi me lo fa fare? A 80 anni quasi, a 78 anni, mi prendo questo impegno anche. Oh, oui. Poi ci vuole il parcheggio, vabbè, tu mi dirai, ci sono i parcheggi a pagamento, costruiti anche, sì, tutto quello che vuoi. Ma è sempre una faticaccia, oh Marco, no, non me la sento più, assolutamente. Ui, quando ero giovane già ne ho fatto tanti anni di campeggio con la famiglia, ma adesso no, non è più il caso, guarda. Eia, poi una volta chiudevano più un occhio. Io parlo di campeggi alla selvaggia, no, non andare nel campeggio organizzato, no, me ne sto a casa piuttosto. Anche da poco a Portoferro c'erano dei campeggiatori che magari hanno dormito solo lì e li hanno sanzionati, in Pineta di Portoferro. E va bene, cioè va bene, va male, e no, così è. Stanno comunque stringendo, dando un giro di vite in tutto. Stanno un po' vietando tutto, non puoi fare più niente. Se ti porti via mezza conchiglia dalla spiaggia, anche non volendo, ti denunciano penalmente. Qua stanno diventando tutti matti. Ed è tutto in funzione di soldi, là. L'ho sempre ripetuto e continuo a ripeterlo. Sì, ma anche adesso ultimamente, almeno quest'anno, non hanno permesso nemmeno lì dove c'era quel campeggio, la Maglia Pia, mi sembra. Lì dove ci andava, ci stavano con la flotta fissa sempre lì sul posto, e c'erano tanti campeggiatori, c'erano, adesso non mi hanno più permesso di campeggiare da quest'anno, sino l'anno scorso qualcuno ancora c'era, ma da quest'anno hanno proibito di campeggiare, per cui ti puoi immaginare. E lì c'era anche il mio consuocero, c'era lì, che praticamente è proprietario di un pezzettino di terreno, perché tutti quelli avevano un pezzettino di terreno, erano proprietari, no? E per tantissimi anni hanno campeggiato lì, però adesso non lo permettono più, dunque si ritrovano anche loro appiedati, per così dire. Comunque ho scoperto un articolo di legge che spiega che dormire una notte in tenda, metti che tu stia pescando, magari sei stanco, non vuoi tornare a casa e ti piace la tenda finetta, in spiaggia, quello che è, no? Allora il campeggio è una forma di, cioè ti stai installando in un punto un po' però protratto nel tempo, però se tu una notte all'imbrunire monti la tenda e dormi e poi la mattina dopo te ne vai, quello non è campeggio, ma è, come dire, un pernottamento, un termine particolare, bivacco. Tu vedi, in ogni pineta hanno scritto divieto di campeggio, però per una notte non dovrebbe essere sanzionabile, però vaglielo a spiegare ai soliti, no? Ai soliti notti, non fanno distinzione loro, benché la legge lo faccia, loro non lo fanno, perché o non lo sanno oppure se ne fregano, tanto è solo da spremere con le multe il cittadino, capito? Sì, in effetti è così, oggi tutti vengono stranuti proprio all'osso, per cui non è più il caso di andare lì a buttarsi, noi lasciamo perdere. Sì, eppure è bello, perché è bello, io l'ho fatto tantissimi anni, campeggio con la tenda, ma tanti anni avevo una tenda addirittura con 7 posti, ti puoi immaginare, se chiamavo tutta la mia famiglia, c'era sempre l'aggiunta di qualche familiare, sempre, e dunque stavamo molto bene, ma tanti anni ho fatto, tanti, ma era un sacrificio tremendo, perché io nonostante che la famiglia è nel campeggio, magari avevo fuori di quel periodo di ferie, poi viaggiavo continuamente, viaggiavo sia a pranzo che la notte, a cena, per andare lì al mare, per stare con la famiglia. Ma io parlo addirittura di anche 4 mesi di seguito, tanto per darti un'idea. Ed era un sacrificio enorme, mi rendevo conto che, però piaceva, eravamo giovani e dunque piaceva, soprattutto perché c'era la bambina allora, oggi c'è una donna grande, per cui va per conto suo, con la sua metà, perciò non è più il caso. Prima si faceva più che altro per quello, per portare la prole al mare, ma adesso non è più il caso. Sono meglio a casa, guarda, con questo caldo che fa, sono meglio a casa. Accendi il condizionatore e sei a posto. Tranquillo, pacifico, meglio di me che sta. Ui! Sì, vabbè, diciamo che da giovane lo affronti anche con uno spirito diverso e voglia più di fare, di... non solo per la prole, anche per... insomma, se ha più voglia di fare. Il camper è una bella cosa, molto, molto bella. Naturalmente anche lì bisogna stare attenti a dove si fa, dove si può stare, dove non si può stare, e che anche lì si rischiano multe, eccetera. Bisogna andare sempre nei punti preposti lì al campeggio di camper, però è molto molto bello, a me piacerebbe. Se avessi la possibilità farei lo zingaro, lo sai, tu immagina un'estate, tutta l'estate ti fai una spiaggia diversa, inizi da un punto che adesso è a nord e ti fai tutta la circonferenza della Sardegna, ogni giorno in una spiaggia diversa, sarebbe fantastico. Ho registrato canale 10. Sì, già, Marco, ma in effetti è così. Il campo è bello per quello, perché ti muovi e vai tutti i giorni, vai in un posto, va benissimo. Io che ho lavorato per tantissimi anni anche sui camper, e non solo sui camper, anche sulle barche, anche sulle roulotte, ti puoi immaginare, diciamo che sono arrivato al massimo della soddisfazione, non per quanto riguarda il fatto che abbia fatto vacanze eccetera, no, quello no, ma diciamo che ne ho compensato tante, dai, di quei mesi lì. Vediamo, avanti l'amico che... Avanti il break? Niente? Avanti l'amico, non ne ha voglia, dai, non ne ha voglia. Gli è mancata la corrente elettrica. Capito, Marco? Per cui io quante volte, quasi quasi, oltre al fatto che ci lavoravo, però ci godevo anche a fare addirittura i lavori sulle roulotte, sui camper, sulle barche, eccetera, eccetera. Infatti è un lavoro che ho eseguito per una quarantina di anni, ti puoi immaginare, che so tutto, conosco tutto centimetro per centimetro, sia dei camper sia delle roulotte, che allora si usavano più le roulotte, sia delle barche, per cui a fare addirittura gabinati interi di roulotte o di camper, più di una volta mi è successo, oltre all'arredamento interno anche, no? Tutte queste cose qua, però ormai sono passati gli anni, siamo in pensione e siamo qua. Vediamo se entra questo amico. Avanti l'amico, non ne ha voglia, è caduto dalla sedia e si è fatto male a Beretano. Avanti Marco. Ok, ti volevo chiedere, Giulio, tu apparecchi baracchini President ne hai mai utilizzato? O recenti oppure meno recenti, tipo Lincoln? Sì, io avevo il President, l'avevo dato la base, il President Washington avevo, era un bel apparecchio, ha fatto il giro del mondo dopo che l'ho dato io, e ultimamente ce l'aveva Graziano, ma poi ce l'ha venduto, so che ce l'ha venduto, per cui non so più cosa dire, ma sinceramente a me quelli di stazione base non è che mi attirano molto, mi piacciono più quelli veicolari, se devo essere sincero. Questi barrasoni, sì, sono belli, perché sono belli, però boh, a me la cosa così antica, sì, l'apprezzo lo stesso, non è che non l'apprezzo, però io sono sempre per la cosa più moderna, Marco, in tutto e per tutto. Anch'io preferisco i veicolari, perché prima di tutto non voglio sacrificare tipo mezza stanza per mettere una radio, tipo scrivanie, no, io c'ho un riquadro, questo portatelefono in legno, bruttino anche, no, deve essere recuperato da qualche portobello, insomma un appoggio di 40x40, baracchino, ricevitore, punto, sotto c'è la, il coso per l'alimentatore e basta. E poi ricordati, io i veicolari a me piacciono perché l'idea mia è sempre di metterli in macchina, cioè come lo posso usare a casa lo posso mettere in macchina. Sì, sono belle le stazioni base, però non è per me, non è per me. Cioè alla fine poi tu guardi, che so, un Saturn, no? Lo apri dentro e praticamente c'è una EPT 3006, cioè c'è questo baracchino che sto usando dentro, questo che sto usando adesso, trovi la stessa scheda, e l'alimentatore, la sezione che alimenta. Alla fine è tutto scena, tutto manopoloni, però poi dentro c'è un 3009, siamo sempre lì. Importante. Marco, hanno messo l'importante, questo deficiente ha messo l'importante. Marco, mi senti? Io sì. Ha messo l'importante, questo imbecille ha messo l'importante. Che mi scenda un accidente, mi scenda. Vabbè, dai. Quello deve essere quello che poc'anzi non avesse fatto, ma ha braccato e poi non è venuto avanti. Sarà quello, che ne so. No, no, era 9 circa quello che ha braccato, era Santiago 9, non è lui. Forse hai ragione, forse questo è un po' di più. Ma comunque, vabbè, cosa volete dire? Ogni tanto, ecco, questo è il motivo per cui a uno non gli va alle volte di entrare in radio, proprio per questo motivo qua, perché c'è sempre il solito pellegrino. Io vorrei sapere cosa ci guadagna una persona quando fa un'azione del genere. Si dovrebbe mettere davanti allo specchio e interrogarsi da solo, dice, ma sono sano di mente o sono un imbecillotto? Sicuramente la risposta sarebbe quella, sono un imbecillotto, così dovrebbe avere la risposta. Ma magari è qualcuno che non sta uscendo di radio, mi... Ma cosa? Se era messo una portante sopra di te, allora non ti sentivo a te, quando non usciva in radio. Se mentre modulabile ha messo una portante, non credo che sia anche sordo. Sarà muto, ma anche sordo non credo, eh. Ah, boh. E vabbè, lasciamolo fare, dai. Lasciamolo che si affughi nella sua pipì stesso. Cosa vuoi che dica? Non mettete molte, non fanno ridere queste cose, perché cosa vuoi? Sono atteggiamenti proprio da mentecatti, proprio da gente da ricovero all'ospedale, per fare nel reparto psichiatrico. Che te devo dire? E dove eravamo arrivati? Di cosa stavamo parlando? Di camper o di altro? Prego. Avanti. Buonasera Marco, te l'ha contato. E buonasera anche a chi mi ha parlato, Giulio. Avanti Giulio. Sì, ciao, ciao Fra. Sì, sì, sì. Sono io e Marco. Sì, no, poc'anzi c'era qualcuno che metteva la portante. Nonostante che l'abbiamo invitato ad entrare, non era entrato, per cui vabbè, comunque non fa niente. Avanti Fra, come va? Va bene, ma non è che forse ero io, perché ho provato a entrare, come sto provando una radio nuova, e niente, e probabilmente ho schiacciato io e poi non sono riuscito nel momento mai di entrare. Ah boh, può darsi anche, non lo so, cosa vuoi dire, comunque, viva la sincerità, almeno se non altro, sia onesto. Se ti è capitato quello, vuol dire sei sicuramente una persona onesta che l'hai detto. No, io sinceramente non avevo capito che potevi essere tu, anche perché non stavo guardando Smith, non stavo guardando niente. Inizialmente magari il primo break, ho sentito questo break, però poi abbiamo invitato a entrare, nessuno è entrato. Tutto lì, avanti Marco. Prego. Mi Graziano, avanti Graziano, buonasera, ciao anche a Franco. Buonasera, ben sentita la ruota, come sto uscendo che era un bel fermo, Marco? Abbastanza bene Graziano, non ti sento da una vita, ben entrato, modulazione abbastanza chiara dopo tutto. Franco ha una modulazione diversa, è leggermente nasina e non troppo forte. Vai Franco per Graziano, vai Franco. Ciao Graziano, niente, va bene, non devo ancora tutto regolare, probabilmente dipende dalla regolazione, infatti sono entrato più o meno per vedere come stava uscendo la mia radio. Avanti Graziano, buonasera, dopo tanto tempo. Ciao Franco, ben sentito, siccome ce l'avevo ferma da parecchio questa, e la sto provando adesso. Chiappa, va bene, la radio di solito si guarda con quando la tiene molto ferma, bene meno. Allora Giulio, nasina la modulazione, allora sto usando un MC60, sto usando, e insieme al poi ci metto il microfono sul originale a vedere, e insieme alla 706 della Ibro. Ok, sì, rimane un po' nasina rispetto alla tua solita radio, però è abbastanza chiara, non c'è problema fra. Ciao Graziano, noi siamo da molto senza sentirci, da stamattina. Va bene, dai, avanti Graziano. Ciao, ben sentito. Ma adesso sto andando, Giulio, dammi che una conferma. Perché questo era un bel tempo fermo. Va benissimo, grazie a voi, alla grande, non c'è problema. Va benissimo. Ok, vabbè, stamattina eravamo nell'altra frequenza, però va benissimo. Va benissimo anche il segnale, grazie a voi. Il tuo segnale, la tua radio, eccetera, eccetera. Anche se leggermente più squillante, non squillante nel senso più forte, no? Con una voce più sottile, ecco, si vede che è quel tipo di baracchino, però è abbastanza buona, devo dire 5 perfetta. Avanti Marco. Io uccello sto. Io a Luca Lucariello, ciao Lu, sì, 8:30. Perché qua non siamo Bruce Smith, buonasera a tutti. Mettegli un po' di olio. Ciao Luca, ben entrato. Prossimo Bruce Smith. Attacca la 2.80, la 2.30 attacca, anziché i 13 volt. Vai Luca. Sono entrato perché visto che non si paga più la concessione, avevo paura che magari mi trovassero. Meglio così, grazie, avanti. Comunque saluto anche a Franco e Marco, avanti, grazie. E adesso ti ho centrato bene con il Clarifer perché eri un po' spostato, cioè io avevo il Clarifer un po' spostato, capito Luca? Giulio, tu sempre bene mi senti, che ho regolato meglio. Va benissimo così, e appunto è quello che ti volevo fare regolare, magari io pensavo che era già regolato, invece comunque ho notato che c'era qualcosina che non era proprio quella giusta. Va benissimo così. Sì Luca, ci siamo sempre, nonostante il caldo. Sì, non si paga più la concessione, no, quello è tranquillo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, cioè, ti ho mandato anche il suo WhatsApp, ti avevo mandato la fotografia dell'articolo, per cui non si paga più, anzi ti dico di più, non c'è bisogno nemmeno di fare domanda, se uno vuole intraprendere questa attività così per pura passione, vai, compri quello che serve, entri e moduli direttamente, non c'è bisogno nemmeno di fare domandina, non serve più. Va bene, facciamo girare, avanti Franco. Franco, riprendo io, va bene. Grazie a tu, bene, mi ascolti. Sì, sì, grazie, sento bene. Vabbè, poi ti cane cubiato cazzo di mangiava che si di là, avanti se si lavava così in galera e non si farà più per non fare brutte figure, lo santo, no? Ah, guarda, l'unica, hanno fatto la cosa giusta, a noi vabbè non ci faceva niente, tanto erano 12 euro, che era praticamente un euro al mese praticamente, se che non ci faceva né più povero né più ricco, però era un'ingiustizia nel vero senso della parola, che per tantissimi anni si è pagata questa assurda tassa, perché non ci hanno mai dato niente, hanno lo Stato non ci ha mai dato niente, la radio è la nostra, il microfono è la nostra, l'antenna è la nostra, l'alimentatore è il nostro, per cui lo Stato a noi non ci ha mai dato niente, ed era un'assurdità che si continuasse a pretendere questa misera tassa, perché in effetti era una misera tassa. Però per quale motivo te la devo dare se tu a me non mi dai niente? Questo, questo non è un televisore che tu mi stai dando un programma, mi stai dando ci sono delle spese da parte dello Stato o da parte di chi che sia. Invece quando trasmettiamo noi la spesa è solo ed esclusivamente la nostra, per cui non capisco come mai avevano messo questa tassa da stupidi, da deficienti praticamente. Vabbè, vediamo se è rientrato Franco, avanti Franco. No, bene, è rientrato, avanti Marco. Eia. E un po' si sono omologati all'Europa, perché credo in nessun paese d'Europa ormai si pagasse più. In qualche paesino devi fare la domandina, ma non paghi. Non paghi. Però la maggior parte né domanda né cosa. Poi conta una cosa, anche noi del baracchino, mi ricordo dalla vecchia concessione, praticamente non dobbiamo disturbare nulla, cioè non dobbiamo disturbare nessuno, nessun servizio, però possiamo essere disturbati da tutti, cioè non abbiamo, già capito, adesso mi sto impapinando, cioè ti devi beccare tutti i disturbi, però tu non devi disturbare nessuno, quindi sì, si pagava per... non avevi diritto a niente, cioè a usare questi 400 kHz, boh, 40 canali, vabbè. Sì, sì, sì, quello sì, è vero, cioè in caso di interferenze al contrario, noi non abbiamo diritto di protestare, è vero, sì, anche quello dice il nuovo regolamento, sì, è vero, purtroppo è così. Naturalmente mi riferisco ad altre trasmissioni che possano influire magari sulla nostra, ecco, per quello che sta rischiando Marco. Sì, anche quello è vero, anche quello è stato scritto nell'ultima notizia sulla Gazzetta Ufficiale. Vabbè, comunque, accidenti a loro, io dico solo questo. Avanti Luca. Vabbè, là, non ce ne può fregare di meno. Riprendi tu, grazie, là, che io mi assento. Rimango un attimo all'ascolto, non devo fare la roba, là, riprendi tu, grazie. Però le bande amatoriali invece, non la 27, quelli la tassa la pagano. Nulla ne sai, Giulio. Niente, nemmeno loro, niente, è tutto abolito. A parte il fatto che loro pagavano 5 euro, mi sembra, la differenza di noi. Però... almeno loro hanno ripetitori, anche se sono ripetitori di loro proprietà, sia ben chiaro, questo bisogna chiarirlo, almeno suppongo che siano tutti i ripetitori che hanno la banda radioamatoriale, suppongo che sia di loro proprietà, intendo dei proprietari che sono i radioamatori stessi, le associazioni, non lo so, comunque so che è così. Ad ogni modo, va bene lo stesso, non ci ha fatto né caldo né freddo la piccola tassa che pagavamo, però era un'ingiustizia, proprio nel vero senso della parola. Avanti Marco. Ma allora non ci vuole neanche più il patentino per fare radio amatore, se l'hanno abolito tutto, uno si piglia una radio per fare radio amatore, tanto non ci vuole niente. Lo fai, se no vai in piazza con una Mariana che ti dà regala, di grazia. Ma non ti ha detto grazia. Troppo da addirittura liberalizzare la camminatoriale, sarebbe il caos, ciao, ciao, Claudio, intanto. la banda cittadina e il PMR, no, annesso e connesso, però i radioamatori li devono pagare i 5 euro o non li devono pagare? Interrogativo. Sì, che devono pagare, ciao Giulio, certo che devono pagare, non c'entriamo niente noi con la banda cittadina, banda amatoriale è un'altra cosa. Grazie, guarda che lunedì c'è il mercatino in Piazza dei Segni e c'è una bancarella, capito? Le vendono a chilo però le patenti, vai e te la fai dare, capito? Vai e te la fai dare, cabaretto vai, cazzo. Oia, oia, vai Graziano. Un attimino, ok dai, Giulio dai un attimino e gli altri che avevo problemi e non sono potuto entrare, niente, così com'è la radio adesso Claudio? No, non è bella, non va bene, fai quello che ti ho detto, c'è da entrare nel menu e vedere alcuni parametri. È molto molto delicata quella radio, io ce l'ho e ti ripeto, in AM non l'ho mai usata perché non ne ho mai tolto piedi. Ciao Giulio, buonasera, non so se mi ascoltate, io sto andando col baracchino 4 watt perché non sono a casa. Ok, avanti Giulio. Mi Graziano ha detto di regalare la patente, bene Graziano, ti faccio la fotocopia. Ciao Claudio, infatti Graziano mi ha dato di fare una degli sui, guarda grazie a che stamattina al mercato c'erano i biglietti da 50 euro a 20 euro un chilo, se vuoi andare a comprare domani mattina ce ne saranno rimasti ancora un po', beh grazie. Ehi, abbassa lì, tramite internet si può pigliare pure gli euro. Non li puoi pigliare a facchi. Non c'è più bisogno di andare, già sei arrivato a casa adesso. No, quella è moneta falsa, no, non andava in visa, non andava in visa, grazie. Non mi ha dovuto venire a tamare, i biglietti da 50 euro, a 20 euro lo chivo. Infatti io sono andato, non ho sbagliato un paio di chili, ma da voi non va bene, anche con tanti, non ho voluto comprare altro, con questo. Avanti Marco. Eia. Comunque Claudio, secondo te questa liberalizzazione della 27 poteva essere una cosa negativa, cioè che potrebbe entrare gente così a far casino, a inondare la 27? Secondo me no. Cioè, non ha senso di esistere la 27 da quando ci sono i social, tutte queste applicazioni tipo Zello, Cibitalk, cioè nonostante non si paghi più, nonostante non si faccia più domanda, non entrerà gente nuova, proprio non si, lo dico a parole mie, scusate, non si allarga nessuno la 27. Sì Marco, ma non c'è più interesse, ma questo si sa, basta vedere anche noi, non abbiamo più interesse che avevamo prima, io sto settimane e settimane senza accendere il radio, senza fare attività, adesso ero qua di passaggio, ho visto che c'era qualcuno, sono entrato più che altro a salutarvi, ma non per replicare ciò che avete detto, per carità, è una cosa buona, noi non abbiamo niente a che fare, noi dico la banda amatoriale in generale, continuiamo a pagare i nostri 5 euro, però abbiamo un servizio molto più vasto rispetto a quello della 27, come modalità generale, insomma, ecco, come ha detto Giulio, usufruiamo dei ponti che sono di proprietà delle varie sezioni, nessuno ti regala niente, c'è appunto questa tassa ARI che fa parte dell'Associazione Radioamatori Italiani, che ti mandano una radio rivista, c'è le antenne assicurate, hai un sacco di cose, il servizio QSL che è molto importante e tante altre cose, quindi è giusto così. La 27 è giustissimo che sia stata tolta queste 12 euro, io sono stato uno dei primi a lamentarmi, non chiaramente, però con me stesso, dico, ma porca miseria, io con un servizio radioamatoriale dove usufruisco di tutto e di più, pago 5 euro, la 27 che mi dà 40 canali stupidi dove non ho niente, devo pagare 12 euro all'anno, perché non riuscivo a capire. Quindi questa decisione penso che sia una decisione giusta, una decisione che andava presa e va bene, non penso penso che comunque si possa andare incontro a cose diverse da quelle che siano adesso, assolutamente. Rimarrà tutto così com'è, la gente che ha la passione, la gente non gliene fotteva niente prima, non gliene fotte niente neanche adesso, secondo il mio punto di vista. Avanti Giulio. Sì, ma in effetti è proprio così, uno ha la passione, o ce l'ha o non ce l'ha, quelli che non ce l'hanno non gliene frega più niente nel barattino, per cui si sa, è proprio così. Ma evidentemente adesso il ministro delle comunicazioni è un pochino più intelligente di quelli che l'hanno preceduto, evidentemente, ma ritardarsi così cretina e stupida, cosa sta dando lo Stato a queste persone? Non sta dando proprio niente, per quale motivo noi gli dobbiamo sottrarre queste risorse, anche se è una miserissima cifra, perché le dobbiamo togliere? Non dimentichiamoci che prima intanto erano 15 euro, ma non erano solamente le 15 euro, e c'erano le marche da bollo, e c'era la raccomandata con ricevuta e ritorno, e c'era la domanda alla forza dell'ordine, insomma, diciamo che nel corso degli anni un bel po' di soldi ce li hanno sottratti, c'è anche quello da tenere in considerazione. Tutto questo oggi ci sembra che non ci sia più, e speriamo che non cambia l'idea, cosa volete dire? A questo punto non credo che cambia l'idea, ad ogni modo, sarebbe proprio da imbecille, da cretine, nel vero senso della parola. È un po' come il bollo della patente, che ce l'hanno fatto pagare per tantissimi anni e adesso da tanti anni ce l'hanno tolto. E speriamo che ci tolgano addirittura il bollo della macchina, quello che è interessante, che dà fastidio a tutti gli italiani. Avanti, Graziano. Vai Franco. Gianfranco, sei tu? Sì, confermo, sto ascoltando e sono rimasto perplesso. Buonasera a tutti. Ma è vero che hanno tolto questa tassa? Fino a questo appunto, chi ve l'ha detto? Quando? Come e perché? Sulla gazzetta ufficiale, Gianfranco, io non ho il tuo numero di telefono, se no ti avrei mandato su WhatsApp la fotografia della gazzetta ufficiale. Sì, è una questione di recentissima approvazione che è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale. Comunque posso fare così, non so se Claudio ce l'ha ancora, io la mando a Claudio e Claudio te la gira, così la puoi leggere tu, va bene? Ma non c'è niente, lui non ha WhatsApp, lui vive di aria, non ha WhatsApp lui giù. Ah, non ha, vabbè, è una pazienza. Pazienza allora, non so cosa dirti. Non so cosa dirti, ti posso solo salutare ed accettare sicuramente per compiacere il tuo QSO. Avanti Gianfranco. Sì, non è stato di quella roba che io utilizzo altri sistemi più sicuri, ecco, perché nel telefono c'è altra roba importante che non si possono mettere quelle cose lì che già aveva detto cosa succede, WhatsApp, Facebook e cose del genere, sono tutte craccate da chiunque. E, sì, sul sito del Ministero non c'è niente, adesso comunque controllo sulla gazzetta ufficiale, tanto ce le ho tutte, quindi vediamo un po', perché mi sembra un po' strano, insolito, comunque se così meglio così. Però Claudio, buonasera, dove sei? Giù qua vicino? Sì, sono già più di un mese, penso di tornare a Sassari a settembre, se ci torno pure. C'ho questo baracchinetto con un microfono che mi ha dato Massimiliano, sto usando questo, tutto qua. Sì, ufficiale, Giaffra, vai tranquillo che ufficiale, no, non c'è nessun problema, puoi guardare tranquillamente, ufficiale. La CB finalmente sono decisi di eliminare questa tassa, visto che quel poco che ci danno è giusto che ce lo gestiamo noi a conto nostro, sempre con umiltà e professionalità naturalmente. Vediamo un po' se vuole riprendere Franco, se no riprendi tu Graziano. Buonasera a tutti. Avanti il prossimo! Tonino, ciao Tonino. Gappa, saluto il circolare tutti quanti. Ciao Tony, mi chiedevo che fine avreste fatto, tutti spariti nella parte. Eia. Comunque Gianfranco, buona serata, credo che l'unico che l'abbia messo sulla pagina ufficiale sia il Mise della Toscana, credo di ricordare il Mise Toscana, sul Mise di altre regioni, tipo Sardegna, a quando aggiornare la pagina la 27 non esisterà nemmeno più, capito? Sì, era in Gazzetta Ufficiale, ma io problemi a pagare 12 euro non avevo, però. Ma quindi adesso se sei in macchina allo baracchino non ti chiederanno proprio niente, più niente, niente bollettino, niente autorizzazione, niente di niente. Come che non ci sia il baracchino? Guarda, io questo non lo so e qui vi lascio perché devo fare alcune cose. Dai, saluto Tonino, vi saluto tutti, sono andato a salutarvi. Basta così. Ci sentiamo alle prossime. Non lo so, questo non lo so, bisognerebbe informarsi bene perché io non uso il baracchino in macchina, quindi è una cosa che mi interessa ben poco, però chi lo usa informatevi perché magari ci sono altre cose sotto che non è stato ufficializzato, non lo so. C'è stato un break, io le do il cambio, con la buonasera a tutti, buon proseguo di QSO, alle prossime, ciao ciao. Eia, ciao Claudio, buona serata, buon proseguimento, buon tutto. E infatti dice di stare cauti, non sia che qualcuno dal ministero faccia casini, che magari non vuole seguire la direttiva europea, boh, anche se è già in gazzetta c'è una cosa già approvata. Vabbè, io comunque la concessione me la porto in macchina, un bollettino pure, l'avevo pure plastificato per evitare che il calore e l'umidità lo facessero ingiallire il foglio. E ho sentito un break, forse è già in macchina. Doppio run, tu sei. Eia, adesso devo fare mente locale, dunque c'è Giulio, Graziano, Franco di Sorso, Tonino, Gianfranco, sto dimenticando qualcun altro, vai Franco. Registrato, Franco ci sei, se no riprende Graziano. Giulio, vai tu, dai, e poi manda il break. Ok, riprendo io allora, registrato il break. Ma io dico che non c'è bisogno nemmeno di quello, io ce l'ho sul telefonino, al limite se dovesse capitare un controllo del genere per qualche agente che non è al corrente di questa nuova legge, apri il telefonino e glielo fai vedere. Guarda qua, c'è tanto di legge, decreto legge del 16 luglio, numero 70, aspetta che guardo di nuovo, lo dico subito, 76 se ricordo bene, per cui aspettate un attimino solamente, sì, numero 76, decreto legge 16 luglio 2020, numero 76, misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, per cui è più chiaro di così, c'è tanto di fotografia, gazzetta ufficiale, eccetera, eccetera. Perciò dovrebbe valere anche quello come documento, non c'è bisogno, eventualmente se c'è qualche agente che non è ancora al corrente di questo fatto qua. Va bene, avanti Giofra. Ah no, scusa Giofra, facciamo venire avanti il break e poi magari vi facciamo girare. Avanti il break. Io devo subito passare la palla perché non ti sento bene. Avanti Giofra, buonasera comunque all'amico. Avanti Giofra. Sì, anch'io vi saluto, rimango in ascolto. Quindi Marco, riprendi tu perché c'è molta gente, quindi così avete la possibilità di fare girare meglio. Sto controllando proprio quel coma per vedere un po' cosa dice, soprattutto se è vero, perché di fake ne girano parecchie. Però vediamo un po' la parte ufficiale. Ok, riprendi Marco. Gianfranco, un istante, comunque questo è un decreto legge, no? Però il decreto legge ha una validità di 8 mesi. Se non viene convertito in legge entro 8 mesi dovrebbe decadere, esatto? Se è sulla gazzetta è già legge, la gazzetta ufficiale è già legge. Ah, ok, allora diciamo che è un decreto legge diventato legge, ok. Ciao Roberto Banditto, Santiago 9, però come moduli c'hai le giri picchi negativi. Adesso chi c'è rimasto? Vai Tonino e poi vai per il doppio room, vai Tonino. Kawasaki, ci sei? Gianni, vai tu. Ehi, là, sono in direzione Placalona, non so se mi sentono, come mi state ascoltando. Sono già sulla Budibudi, dai. Io ti sento bene, Caruccio. Gianni, mi senti a me? Marco. Sì, allora Gianni ti sento, 95-910 oscillante. Dimmi chi è Claudio. Sì, ma tu fai una cosa, per non saperne leggere e scrivere, a prescindere, giustamente come ha detto Giulio, perché perché potrebbe appunto succedere quello. Chi ce l'ha e usa la radio in macchina se la porta, continua a portarsela presso, chiaramente senza esibire il bollettino inerente all'anno che verrà, quindi al 2021, perché quelli del 2020 ormai li abbiamo già pagati. Però la concessione è sempre meglio averla presso, poi a prescindere di uno può essere preparato o no, non sappia la legge, non conosce la legge, non sa niente eccetera, le inserisce anche quello, poi chi si vuole stampare la gazzetta ufficiale se la può stampare e allegare la concessione vecchia. Se io avessi avuto la radio in macchina avrei fatto così, almeno si è sicuri insomma di non andare incontro ai soliti cretini, ai soliti ignoranti che ignorano proprio il decreto legge, quindi pensano di fare i furbi, ecco tutto qua. Va bene, proseguite, dai, rimango in ascolto che sto facendo cose, c'ho anche Gianni doppio room, segnale un po' bassino nella budi mi arrivi, e nonostante sia a vista, ma ti sento un po' basso. Dai, cambio per Giulio, fai girare tu, io Roberto Bandito non lo sento, avanti Giulio. Ok, infatti io lo sento bassissimo, ma ormai sei tutto strappato e non capisco quello che dici, infatti non avevo capito nemmeno il suo nome nativo, se non l'avrei sentito poi dalla bocca di Marco, non proprio. Io comunque devo rilasciare il microfono, vediamo un po' se avete messo a posto tutto quanto. Nel frattempo saluto anche Gianni che è appena entrato. Ciao Gianni, buona passeggiata. Avanti Bandito, Giulio Dolla da questa parte, vediamo un po' se riesco ad ascoltarti bene, vai. Roberto, prova a fischiare, fai un po' di fischi, vediamo. No, sta tenendo, è una cosa infinitesimale e compare solo a brevi tratti. Ok, vediamo che c'è rimasto. Luca, riprendi, lo ascolti Roberto? A voglia, vabbè, mi ascolti? Vabbè, io sono qua, giù la Terolce, sento meglio di Pisa. Scusate un attimo, Marco passa sul 23. Ehi, hey, già. Dai, dalla Budi, dove mi ascolti? Budi non tratta. Segnale 9, radio 5. Ciao, anche a Claudio se mi ascolta. Marco, se ci sei, canale 23. Ho piazzato l'ala e non funziona. Ah, parte tutto. Non so la portata. Franco, QTC da parte di Emanuele, canale 23, se sei all'ascolto. Quale? Il 48, quello che ho sistemato io già. Il 48, quello modificato, l'ho piazzato in macchina per uscire più forte, invece praticamente non funziona, si accende però non sale la portata quando premo il microfono. Sicuramente si è staccato qualche filo. Ho capito, va bene. Andare, avanti Robè, un po' di radio bassa c'hai, avanti Robè. Ho capito, io sto usando l'alimentatore di computer. Se vuoi tu autocostruisco, ci metto un'oretta per fartelo. E vanno bene, che sono a 12, non è a 13,8, comunque vanno bene. Ehi, vabbè, vediamo un po', graziamoci, sì. Ehi, che ci sono! Ehi, anche io a Gianni, fa non l'ho sentito, adesso già l'ho sentito. Non bene bene, però già l'ho sentito. Ciao Gianni! Ehi, Lucia! Come stai? Ehi, il solito, sempre la matrice ministra. Bisogna conviverci, dai, cosa devi fare? Ehi, andare. Vabbè, rilascio tutto qua da Marco, quando? Ravanti Marco, come mi stai ascoltando? Gianni, Santiago 8, 7 e mezzo, 8 oscillante, dove sei arrivato? Quello di giù, non ricordo come si chiama. Eia, comunque ancora va bene, dai, poi la modulazione tua è buona, ottima, dalla macchina. Ok, chi altro c'è rimasto? Claudio, ci sei ancora? Tonino non ha risposto, ci sei Tonino all'ascolto? Oh, sparito, vabbè, Claudio. Niente. Vabbè, riprendete Luca, vai tu con Roberto, dai. Ah, Tonino, poi siamo in barca, c'è anche. Tonino? Siamo in barca. No, non c'è, no, non ha risposto, poc'anzi. Gianni, mi dici adesso. Mi siete accavallati! Attento Giulio, di botto è partito l'apparecchio, stato distorsissimo, incomprensibile. Controlla, controlla se hai sfiorato qualche trimmer, qualche potenziometro lì, come si chiama, slider. Terribile, terribile, una cosa mai sentita. Fuori la butti Giulio! Fritto fallo. Vabbè, vediamo, mentre Giulio controlla, vai Roberto Bandito, vai. Mamma mia, lo stai uscendo! Già sto uscendo, già sto uscendo, non ti preoccupare, qui l'ha detto che lo sto uscendo. Adesso sì, ma un istante fa Giulio, era una cosa distorsissima, una cosa folle, mai sentita prima. Ehi, vabbè. Vabbè dai, perché ho toccato il potenziometro qua e non me ne sono accorto, come stavo spostando il microfono. Adesso già va bene, dai, confermi Marco. Sì, sì, adesso va bene. Oh, io vado a preparare qualcosa qua, dai, rilancio Roberto Bandito e rimango all'ascolto, ok? Vai Roberto. Luca Cefaraddu, qua sei 9, ogni tanto sente una appena appena, ma sei in macchina interrogativo. Ma motore fermo per caso, perché certe volte lo fa anche a me, cioè per quanto la batteria sia carica, a motore fermo certe volte mi dà picchi negativi, no, non lo so perché. Marco da questa parte. Appena accende il motore si risolve tutto. Pare strano perché comunque l'accendisigari era sempre 10 ampere nelle macchine vecchie, nelle nuove addirittura arriva a 15 ampere la corrente, quindi non è che c'è, non c'è limitatore, non c'è, ma chi non ne assorbe 2, 3 massimo. Ok, dai, io devo rilanciarvi. Graziano, vai tu, dai, io devo cucinare qualcosa per dopo. Vai Graziano, rimango in Core X. Eia, buona cucinata, mettici il baracchino di Giulio e le fai bollire. Cosa vuoi che dica? Anche io non è che lo sento bene bene. È un po', è alto, un po' si abbassa, sarà questione d'alimentazione. Tu cosa dici Giulio? Ah, ma come tu io, vedi cosa si risente. Io sto scendendo bene, se ti dà l'estero sto scendendo bene. Ah, va se scendi bene, ma allora non sei incomprensibile proprio, non ci capiva niente. E te l'ho detto poc'anzi, perché ho spostato il microfono e ho toccato il potenziometro e dunque non era regolato. Ah, sai, dovevo comprendirla. Guardate che sia che sui toccato lo vai giù. Se vuoi, lasciami lì, se vuoi te la regoleggi ancora, ecco, ah va beh tanto, così addirittura si deve lavare l'ecce, se no non mi intendi. Così va bene, no, adesso già ti sento bene, ma io sono molto alto qua, sono a Washington. Ah, mi stavano in un vedere, anzi no, poc'anzi stavamo parlando di quel baracchino lì, di quel baracchino che prima era mio, Washington, che con Marco stavamo parlando proprio di quello poc'anzi. E beh, cosa ne devi dire? È un treno, Aspetta che chiedo se c'è ancora, chiamo Gianfranco se c'è ancora, se ha controllato l'articolo che le interessava. Gianfranco, sì. Sì, lo sto controllando, ma parla tutto di semplificazione di appalti, eccetera. Adesso sono alla pagina 14, ce ne saranno altre 20, vediamo un po' se nell'articolo abolizione della tassa, ma allo stato attuale, per quello che si può leggere, riguarda solo le rate dei mutui, aiuti economici, eccetera eccetera, non c'è niente di specifico per ora. Io proseguo a leggere, sono in ascolto. Sì, guarda, verso la fine, scusi le pagine, verso la fine, adesso non mi ricordo quale pagina era, ma mi sembra che è intorno ai 20, 25, 27, se ricordo bene. Scusi la pagina che già c'è, spiegato chiaramente, o già per cui. Va bene, dai, ti lascio leggere. Ok, avanti Marco. Sì, io ti ascolto Gianni, Santiago 4 e mezzo, la radio un po' bassina, ma ti ascolto. Ho capito, sei salito anche a 6 adesso. Sì, già ti sento, no, abbastanza comprensibile sempre quello. Pigli, se mi copia, ti arrivo a Santiago 5, anche 4, è molto basso qua, Gianni mi copi? Poi io ho 3 watt, Giulio, cioè questo filtro che io ho voluto ottenere per scrupolo mi mangia 1 watt, di 4 watt se ne mangia 1 e ho 3 watt, solita storia. Poi 50 metri di cavo, no, già lo sai, quindi su ne arriveranno 2 seppure, 2 watt. Sì, ma lo so, purtroppo così arrivano, fuoriescono, magari dalla radio fuoriesce con la potenza, però poi quando arriva in antenna si dimezzano ancora, ma lo sappiamo, è così, purtroppo è così. Va bene, dai, facciamo girare ancora, vediamo se c'è ancora Luca, ci sei? Mi ha fatto 5 minuti. Va bene, grazie. Luca, ci sei? Luca non c'è, Franco sei rientrato? Franco non è rientrato, poco fa si era spostato con Manuele verso il canale 23, se non sbaglio, perlomeno così aveva chiesto, poi vediamo un po' se rientra. Sì, ma è così. E beh, Gianfra, hai trovato? No, sono arrivato agli aumenti delle ore straordinarie per i vigili del fuoco. Sto proseguendo piano piano. Ok, ne è per tutta la sera allora, dai, per leggere. Leggi tutto, così ti documenti su tutto. Bene, bene, avanti Marco. Intanto sono tranquilla a cucina, va bene, perché il filo del discorso, insomma molti sono spariti dal canale, dai. C'è gente sul 23, chi c'è qua? Facciamo l'appello, chi c'è rimasto? Che ne so, Roberto C. Santiago 5 già. Sì, allora Roberto, sei passato da 9 a 9 più 5 e apparentemente non hai picchi negativi. Fai un passaggio lungo, bello forte, parla vicino. Cappa. Gianni, mi hai sentito? Santiago sì, è arrivato. Come mi senti tu a me? 1, 2, 3, vabbè, non il segnale, cosa vuoi darmi? Il segnale della macchina, a cosa mi serve? Niente. No, voglio dire, il radio, bene mi senti? Guarda adesso il bikini, guarda il bikini. A te le immagini. Oh Marco, subito è andata ad occhiare, non è possibile. Oh, Roberto mi sembra che si chiamano. Ma da dove stai modulando? Perché ti sento io. Santiago, senti, il segnale non sarebbe male, però la radio è talmente bassa che alle volte non riesco quasi a capire quello che dici. Ma in macchina mi ha detto che sì, ma da quale zona moduli, lo puoi dire? Sì, sono al monte, però strano che si sente poco, strano. È una radio normalissimo, quella bassa, però va bene comunque, dai. Se c'è calma già riesco a capire bene quello che dici. Dal monte mi dovreste arrivare fortissimo, qui sta arrivando appena Santiago 7 e anche scarso. Io sono sulla 131, 4 km da Sassari, 4-5 km di punte praticamente, per cui mi dovreste arrivare non meno di 9 almeno 9, sennò, perché tutti gli altri mi arrivano anche 9.15, 9.20 da quella posizione. Va bene, avanti Marco. Dipende Giulio, se dipende che parla.